sta proprio lavorato. Andate a buttartene la porta. Così almeno rompo almeno le scarpe. Perché questo è amico di quell'altro magone precedente.